Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Andrea Margaritelli, il profumo dei boschi di famiglia, di Anna Marino. Buongiorno Anna Marino e benvenuti a questa nuova puntata di Voci d'impresa. Oggi la storia è quella di Andrea Margaritelli, direttore marketing del gruppo Margaritelli, titolare anch'egli dell'azienda, un'azienda che ha un business molto allargato ormai in diversi settori industriali, dal parquet all'arredo d'interni. Ma partiamo subito dal primo ricordo che ha il nostro Andrea Margaritelli dei boschi di famiglia da cui proviene il legno. Io ho avuto la fortuna di vivere 2 anni in Francia, in Borgogna. La Borgogna è il bacino nostro di approvvigionamento principale per i legni europei e la Borgogna sostanzialmente oggi conosciuta per 3 o 4 argomenti che sono molto collegati tra di loro: le foreste di Rovere, le vigne, il vino di Borgogna è famoso in tutto il mondo, i formaggi, le abbazie cistercensi. Ebbene, queste cose apparentemente molto distanti fra loro hanno un'origine comune nell'azione dei monaci cistercensi dell'XI secolo, che costruiscono, piantano le prime vigne, piantano le prime foreste, costruiscono opere architettoniche straordinarie destinate a rimanere nel tempo, e come rimangono le abbazie oggi sono le foreste di Citeaux in Francia, le foreste più importanti di Tronfet, eccetera, sono cosiddette foreste abbaziali, create da persone che avevano una grossa conoscenza della tradizione, ma anche una grossa proiezione al futuro, una proiezione in avanti. Ecco, per quanto riguarda lei, si ricorda quando è stata la prima volta che è entrato in un bosco di famiglia? Prima di tutto ricordo l'Umbria. Mio nonno, che aveva una passione molto forte sia per l'agricoltura che per la selvicoltura, costruì tra la prima e la seconda guerra mondiale, mise a dimora in Umbria una foresta che praticamente ha avuto una sua evoluzione molto importante, perché inizialmente appunto piccole piante sono cresciute, io l'ho visto in una fase già matura, oggi sono piante di alto fusto, e questo nucleo iniziale che mio nonno ha inaugurato molti anni fa oggi ha ottenuto recentemente in Umbria la prima certificazione italiana per quanto riguarda la riforestazione di arco appenninico, quindi uno dei primi esempi in assoluto italiani di foresta gestita in maniera ecosostenibile. Ecco, è la foresta che da piccolo ricordo con la mia famiglia era il luogo in cui fare delle semplicissime passeggiate nel fine settimana, erano gli alberi che aveva piantato il nonno, che abbiamo visto crescere e oggi portano memoria di un'azione di molto tempo fa. Proprio la storia della sua famiglia e dell'azienda che si intrecciano e si combinano, quali sono le tappe che secondo lei sono più significative della vostra storia? La storia del gruppo Margaritelli è intanto una storia di un'azienda con il tipico tessuto e la tipica matrice che costituisce l'ossatura, se vogliamo, del tessuto imprenditoriale italiano, che è quella di una matrice familiare. È stata l'origine imprenditoriale, va fatta risalire a mio bisnonno, quindi oggi è attiva in contemporaneamente una terza e una quarta generazione in azienda. Mio bisnonno si occupava di utensili meccanici, aveva fondato un'azienda personale ma che aveva avuto degli importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale negli utensili meccanici dedicati all'agricoltura e alla selvicoltura, utensili che servivano al trattamento, alla gestione dei boschi. Fu proprio mio nonno nei primi del Novecento, nel 1904, quindi la seconda generazione, a spostarsi invece proprio decisamente sul lavoro all'interno dei boschi e delle foreste. Mio nonno sostanzialmente intraprese un'attività che aveva come centro focale la produzione di carbone vegetale. Oggi è un materiale che sicuramente può far sorridere, perché basare un'attività imprenditoriale su un prodotto che ormai è diventato ovviamente obsoleto, ma che nei primi anni del Novecento era un elemento fondamentale dell'economia, essendo forse il combustibile di riferimento. Da quanto tempo c'è la vostra azienda? L'origine imprenditoriale fa fatta risalire al 1870 a mio bisnonno Eugenio Margaritelli. Nel campo del legno, che è stato il core business ed è tuttora il core business della nostra attività, e il marchio Listone Giordano ne è un po' l'emblema, ha come origine nel legno nel 1904, e poi la storia successiva è una storia curiosa, devo dire, di continui cambiamenti. capacità di adattamento a mutati scenari. Sostanzialmente nel giro di pochi anni quello che è un combustibile di tutto rilievo scompare praticamente dalla circolazione. Passiamo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Con la seconda guerra mondiale lo scenario economico, l'Italia cambia completamente il suo volto, c'è cioè l'introduzione degli idrocarburi, l'avvento degli americani, quant'altro, praticamente scompare rapidissimamente un prodotto che era per l'attività di mio nonno centrale. In quel momento la trasformazione dell'azienda avviene in una direzione che coglie l'opportunità nuova, quella che è un momento di difficoltà dato dal cambiamento di scenari viene colto come opportunità. Scompare sicuramente il carbone vegetale, ma è il momento della ricostruzione, ricostruzione che richiede reti stradali e soprattutto reti ferroviarie, quindi viene individuata proprio nelle ricostruzione delle ferrovie una grossa opportunità, essendo le traverse ferroviarie all'epoca costruite al 100% in legno. L'azienda passa di mano ai figli, a mio padre e ai suoi due fratelli, e praticamente passano le redini dell'azienda a chi gli dà un'impostazione tutta orientata verso la produzione di traverse ferroviarie, di cui siamo stati nel secondo dopoguerra tra i principali protagonisti del mercato italiano. Oltre alla vostra attività avete anche delle specificità, cioè l'attenzione per l'ambiente e l'attenzione per la cultura. Me le può raccontare, sintetizzare? Sì, la passione per l'ambiente nasce da un'esperienza straordinaria che ho tracciato, che ha origine assolutamente in quello che abbiamo toccato con mano, vissuto e personalmente anche in 2 anni di permanenza ho potuto constatare in Francia. Quello che dicevo, una gestione che vede un patrimonio straordinario gestito su cicli di 150 anni, quindi immaginare che il testimone si passa da generazione a generazione con questo tipo di visione a lungo termine è una cosa straordinaria che fa pensare. Ecco, abbiamo avuto la fortuna di conoscere una tecnica e tecniche di gestione di questo patrimonio che in Italia erano sconosciute, le abbiamo vissute, applicate per 40 anni e oggi sono per noi una delle leve importanti della nostra attività. Abbiamo creato una fondazione dedicata alla memoria di Guglielmo Giordano, che è stato il personaggio con la quale nella metà degli anni 80 è stato creato il brevetto di Listone Giordano, che è un personaggio che univa in sé due caratteristiche non comuni, quella del grande scienziato, del grande tecnologo del legno, per oltre 40 anni titolare della cattedra di tecnologia del legno a Firenze, direttore dell'Istituto del Legno, ricoperto incarichi internazionali per organismi come la FAO, eccetera, ma dall'altro lato aveva un'anima molto sensibile all'estetica, al bello, alle manifestazioni di un materiale come il legno anche nell'arte, nel mondo della cultura. E il legno oggi è un materiale con il quale si fanno pezzi di design straordinariamente moderno, ma vi ricordate che per secoli e secoli è stato il materiale fondamentale dell'architettura, del costruire e delle opere d'arte. Gran parte della pittura fino al 400 certo. È su legno, fino agli strumenti musicali, eccetera. Ecco, Guglielmo Giordano aveva questa sensibilità duplice. Nel momento in cui ha superato i 90 anni e mancato nei primi anni del 2000, come azienda abbiamo dedicato a questa figura una fondazione che ne preserva la memoria, che ne continua l'attività su questi due solchi. Oggi Listone Giordano rappresenta non solo un prodotto, ma una catena internazionale che vede oltre 600 punti vendita nel mondo, quindi una bandiera del Made in Italy rappresentata in oltre 30 diversi paesi del nostro pianeta. Portare con sé il patrimonio di valore di un territorio, l'Italia, che è chiaramente da tutti identificato come una culla straordinaria di genialità, di saper fare, di artigianalità, se vogliamo, anche nelle lavorazioni, di sensibilità al bello, di estetica, eccetera. Ecco, questa diventa una leva anche sul piano imprenditoriale, una leva di competitiva che non può essere trascurata. In questo senso Listone Giordano nei suoi interventi di comunicazione è sempre stata molto attenta, oltre agli strumenti tradizionali, anche all'investimento culturale, come la Fondazione Giordano dimostra. Voi avete un occhio su molti paesi, avete un'internazionalità ormai consolidata. Quale sarebbe appunto la prospettiva anche del della vostra azienda? L'internazionalizzazione non è recente, è un percorso che è iniziato oltre 20 anni fa. Il brevetto di Lissone Giordano è data 1984, già il suo successo è stato prima ancora nei mercati mitteleuropei, prima ancora che in Italia, dove c'era maggiore cultura del legno, in Germania, in Svizzera, in Austria, è lì che si è consolidato. Negli ultimi anni questo approccio è stato esteso ai paesi anche più lontani. Oggi Lissone Giordano è presente con propri showroom, anche monomarca, dalla Cina a Shanghai, a New York, a Seoul in Corea, in Medio Oriente, in tutti i paesi del mondo. Il futuro è un futuro che sicuramente non può prescindere da una competizione di questo tipo, certamente internazionale, certamente globale. È chiaro che oggi come oggi le tematiche portano a considerare anche tutti gli scenari noti di quelle che sono le perturbazioni che i mercati internazionali hanno avuto, che gli aspetti positivi dell'economia globale hanno anche riverberi negativi, che quella che è una crisi di natura finanziaria oggi tocca indistintamente tutti i mercati, quindi non è la sola internazionalizzazione che oggi mette a riparo da fenomeni di questo tipo. Una delle grandi sfide attuali è legata proprio al rendere moderno e contemporaneo un materiale di tradizione così antica e nobile come il legno. Ci siamo domandati alcuni anni fa in che maniera una pavimentazione in legno poteva incontrare il valore aggiunto del design. Ecco, questa tematica l'abbiamo affrontata con alcuni designer anche di chiara fama, non solo, anche giovani si sono cimentati nel corso degli ultimi mesi. È stata sviluppata proprio questa tematica: che cosa può dare il design a una pavimentazione in legno? Ne è nata una collezione straordinaria che si chiama Natural Genius. Quindi la gente chiede qualità nonostante sia un momento di crisi. Beh, lo spazio per i prodotti di qualità è sempre esistito, continua a esistere anche in un momento certamente di turbativa ed rimane, credo, anzi una delle ancore più solide, più importanti, in cui il prodotto made in Italy a cui deve guardare. Accettare una competizione su piani unicamente basati sulla rincorsa al prezzo più basso credo che non sia nelle corde, nella natura stessa di quello che è il patrimonio dell'imprenditoria italiana, che è in grado di essere molto competitiva, lo sa essere anche con i prezzi, perché è capace di strutturarsi per poter avere per essere competitiva anche sui valori economici, ma sicuramente la sua natura è nel fare i prodotti che sono di qualità superiore, con un valore aggiunto di pensiero, di intelligenza, che ci viene riconosciuta da tutti e che credo continuerà a essere fondamentale anche, anzi forse ancora di più, in fasi di mercato più complesse e meno favorevoli. Termina qui la puntata di oggi di Voci d'Impresa. Abbiamo ascoltato la storia di Andrea Margaritelli, che è direttore marketing del gruppo omonimo, e noi ci risentiamo in un'altra puntata di Voci d'Impresa. Un cordiale saluto da Anna Marino.